Cosa di più? Di certo il mio modo non è nuovo, di certo so che cambierò, ma come la luna nasconde nel cielo il suo vero colore marrone, voglio vedere un giorno il tuo viso ridere al sole. Come la luna nasconde nel cielo il suo vero colore marrone, voglio vedere un giorno il tuo viso ridere al sole. Distrugge ogni giorno il tuo nuovo vigore. Lo so, la gente ti accusa di volere profanare un pudore. Quando capiranno un giorno che l'amore è pure di fuoco, vedrai le loro spade moderne scagliate solamente tra loro. Quando capiranno un giorno che l'amore è pure di fuoco, vedrai le loro spade moderne scagliate solamente tra loro. Scoprire ogni tua nuova paura, vedrai, avrai la forza di dire che vuoi amare la tua strada, la tua vita, la tua. Quando le tue spiagge deserte diventeranno fibre di seta, allora infrangerai senza colpa un odio che vedrai in lontananza. Quando le tue spiagge deserte diventeranno fibre di seta, allora infrangerai senza colpa un odio che vedrai in lontananza.